La versione di Oscar, di Oscar Giannino. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end. Eccoci qua, buon pomeriggio cari ascoltatori, 16:08 primi e 40 secondi, 37, ma insomma se proprio siete con l'orologio spaccato, perché il nostro è precisissimo naturalmente, almeno presumiamo, e vi dico subito, dopo avervi ringraziato per l'ascolto in diretto in podcast, di che cosa parliamo oggi. Oggi questa puntata ha un ospite che secondo me è quello più giusto, e mi assumo la responsabilità di questo giudizio e vi spiego subito perché, per tentare di mettere un po' di ordine, una specie di sintesi in quello che fino a questo momento abbiamo capito, si è capito, perché ognuno poi su ciò che si è capito è legittimato ad avere opinioni molto diverse, sui lavori fino a questo momento condotti a ritmo serrato nella commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche. E lavori a ritmo serrato, perché ci sono dei giorni in cui addirittura ci sono 15 ore al giorno di audizione. In questa settimana ci sono state due giornate assolutamente clou, e l'ultima è quella che ci ha, tra virgolette, regalato l'audizione, tra l'altro, del presidente della Consob Vegas e tutta l'esplosione della nuova coda polemica sulla vicenda di Mariana Boschi, il padre, gli interessamenti del ministro nei confronti di Etruria e Vicenza. Ecco. Però vi dico che è una puntata particolare, perché? Perché per capire che cosa abbiamo capito fino a questo momento, la mia personalissima opinione è che bisogna tenersi un passo discosti dalle polemiche quotidiane che inevitabilmente scoppiano a ogni audizione, quelle di Barbagallo della Banca d'Italia, che è stato ore e ore e ore in più occasioni a rispondere alle domande dei commissari, l'audizione della Consob, l'audizione di Zonin che c'è stata due giorni fa ed è stata un pezzo di commedia all'italiana per certi versi, visto che ha fatto la parte del pensionato dimentico che non si ricorda nulla, o che sostiene di aver appreso delle azioni baciate solo alla fine del 2015, lui non esercitava alcun tipo di azione operativa nella banca, eccetera eccetera. Ecco, però seguendola col passo quotidiano delle polemiche si perde un po', anzi molto, secondo me in maniera decisiva, il profilo generale di quello che fino a questo momento è emerso. E capisco la polemica politica, ma invece quello che conta di più è, primo, riconoscere, io ero molto scettico su questa commissione, la consideravo una pura tribuna preelettorale, e invece innanzitutto riconoscere che ne sappiamo molto di più dopo quello che è stato detto alla Commissione e dall'edizione della Commissione su molti punti decisivi di che cosa ha condotto diverse banche alla risoluzione, di che cosa l'ha preceduto, di come si è svolta l'attività ispettiva di controllo e di verifica e di sanzione della Banca d'Italia e della Consob, e quali sono le diverse tipologie di mismanagement che si sono verificate nelle diverse imprese creditizie. Questo ci dà un quadro, secondo me, che alla politica in questa legislatura non riuscirà in alcun modo ad essere assunto, ma che però dovrebbe essere poi considerato nella relazione finale di questa commissione, come, al netto delle ricostruzioni e dei punti di vista dei diversi attori sentiti, l'eredità, tra virgolette, istituzionale degli interventi da mettere in atto. Io sono personalissimamente convinto, per esempio, che alcuni profili che sono chiaramente emersi nelle posizioni distinte di Consob e Banca d'Italia dovrebbero indurre un paese, tra virgolette, che voglia essere più ordinato nell'esercizio dei poteri attribuiti a queste due autorità, ad assumere un modello, uno dei diversi modelli che nei paesi avanzati esiste e che disciplina la cooperazione obbligatoria tra gli equivalenti della nostra Consob e gli equivalenti della nostra Banca d'Italia come banca nazionale che fa parte del sistema europeo della banca centrale. E io ve l'ho detto più volte, sono per questo, per il modello tedesco. In Germania da anni esiste un triplice modello di cooperazione obbligata tra l'equivalente della Consob tedesca, BaFin, e la Bundesbank, ed è un livello di cooperazione obbligata nel quale primo, l'accesso dei dati della Bundesbank, cioè dei dati degli intermediari bancari, è automatico da parte del BaFin, e da noi invece no. Abbiamo scoperto che Consob può anche chiedere i dati alla Banca d'Italia e negarli. Abbiamo scoperto, lo sapevamo, ma lo abbiamo saputo dal reciproci punti di vista. E la Consob ieri, il suo presidente, ci ha detto: ma se la Banca d'Italia, che deve lavorare per la stabilità del sistema, ritiene che di non dover dare dati o di non dover fare interventi o di non dover coordinarsi con noi, beh, persegue il suo obiettivo, può farlo, e non spetta a me come Consob puntare i piedi. Ecco, in Germania questa roba è impossibile, perché oltre all'accesso automatico dei dati, quando si parla di questioni che riguardano le banche dal punto di vista operativo, agli organi di BaFin partecipa obbligatoriamente un rappresentante di Bundesbank. C'è addirittura un terzo organo quando si tratta di assumere decisioni, che è formalizzato un consiglio di stabilità finanziario, nel quale partecipa anche il rappresentante del governo, stante il fatto che in Germania la disciplina di BaFin è molto meno autonoma della nostra Consob, e quindi è sotto il Ministero dell'Economia. Ma faccio solo questo esempio per dire che l'attenzione di chi segue le vicende bancarie dovrebbe essere molto focalizzata a questi aspetti ordinamentali, a capire che cosa bisogna fare, qual è la lezione imparata da mettere in atto poi con interventi di revisione delle norme, perché in futuro non si possa assistere a vicende analoghe. Allora, fine dell'introduzione, perché dal mio punto di vista, a me che cosa in queste settimane mi ha molto colpito? Che in particolare un osservatore mi è stato utilissimo, perché ha seguito praticamente passo passo tutte le audizioni, ne ha scritto copiosissimamente, e per di più con questo punto di vista, cioè quello di non ignorare le polemiche politiche, le punte di esplosione più grave delle contraddizioni, ma di soffermarsi ogni volta soprattutto su ciò che stiamo apprendendo per tentare di imparare, cioè di metterlo a frutto, di trarne lezione. E io vi invito, se avete dubbi su questo, andate sul suo blog, che si chiama www.panefinanza.it, e l'autore è una persona che già conoscete, l'abbiamo già invitata diverse volte nelle mie trasmissioni. Insegna finanza aziendale all'Università di Trento ed è il professor Luca Erzegovesi. Buon pomeriggio, grazie di essere con noi, ma soprattutto, professore, se lo lasci dire, grazie soprattutto di tutto quello che ha scritto in queste settimane. Come no? Sì. Invece buonasera. Sì, perché in particolare, cominciamo da questo, la sintesi vuole essere, per chi non lo segue, la sintesi in questa trasmissione è tentare di toccare i tantissimi punti. Se andate su panefinanza.it mentre ci ascoltate, e siete interessati e potete farlo, troverete un lunghissimo post che è stato messo ieri tardo pomeriggio, in serata, il 14 di dicembre, crisi bancarie, peccati e peccatori, che è secondo me l'indice del vero libro da scrivere su quello che fino a questo momento abbiamo capito seguendo passo passo la commissione. Quindi questa non è una captatio benevolenza, professore, chi sono io per volere la sua benevolenza, ma è davvero per ringraziarlo, perché questa opinione in realtà la esprimo, ma è condivisa da molti giornalisti che dicono però. Allora, lei lo fa per mestiere. Sono contento di questo. Sì, è il mio mestiere. Però lo fa per passione. Poi c'ha anche una certa vena letteraria. Ci usa pure Peggy per commentare. Noi ragionieri che ci occupiamo di banca ogni tanto abbiamo nostalgia del liceo. Quindi sì, piace Dante, Peggy, Manzoni. No, però questo è, dal mio punto di vista, è straordinario. Insomma, non è semplicemente una questione numerica. Sì, è insolito. Nel ramo. Allora, io le chiedo di partire proprio al netto, quindi diamo per scontato tutte le audizioni che ci sono state e così via. Partiamo dal primo dei capitoli che lei tocca, le colpe addossate ai supervisori. Che cosa abbiamo capito fino a questo momento? Ma allora, prima di tutto, come ha giustamente introdotto prima, la commissione d'inchiesta è partita con alcuni indizi o con delle tesi accusatorie, indirizzate in buona parte sull'autorità di vigilanza, ma non solo. E le cose che sono emerse sono questi difetti di comunicazione tra le due attività, quindi il fatto che la vigilanza non sia basata su un materiale informativo che fosse, diciamo, perfettamente aggiornato a tutti gli sviluppi in senso negativo delle situazioni di crisi delle banche. E l'altra obiezione, però, che è quella che è mossa anche con più, diciamo, veemenza, è sì, sapevano, ma non hanno fatto abbastanza, perché la situazione comunque si vedeva che mostrava dei segni palesi di deterioramento, e quindi, diciamo, alla luce di quello che poi è successo, uno dice: questa lunga gestazione con interventi che sono stati assidui man mano rafforzati comunque ha portato a un esito infausto. E la pietra dello scandalo, il fatto più grave, è i risparmiatori hanno perso il valore dei loro investimenti in azioni, in obbligazioni subordinate. Per fortuna non ci sono state perdite che hanno colpito anche i depositanti sopra i 100.000 euro, gli obbligazionisti segno. Per cui i capi di imputazione sono questi. Ci sono delle risposte tecniche che spiegano questa presunta, diciamo, limitata efficacia dell'azione di vigilanza. Lei a un certo punto dice: Banca Italia, e questo uno dei noccioli profondi delle diverse audizioni sostenute da Barbagallo, che veramente si è rivelato una sorpresa, a dire la verità, nel senso che è stato roccioso e non è arretrato di fronte a nessuna domanda Barbagallo, quindi stiamo parlando di vigilanza Banca d'Italia, che era scontatore. Lei dice a un certo punto: Banca Italia non poteva, sintetizzando che cosa Banca Italia dice su questo, dice: Banca Italia non poteva attuare azioni di rigore, amministrazione straordinaria, se non a ricorrere di una situazione di carenza patrimoniale o di irregolarità gravi e accertati della gestione prima del recepimento della direttiva europea, che Banca Italia ha contestato e ha chiesto che entrasse in vigore dopo, solo per le nuove emissioni obbligazionarie e così via. Però prima, dice Banca Italia, io non potevo attivare questa misura di intervento precoce, né potevo in realtà davvero fare azioni efficaci. Corretto secondo lei? Ma dal punto di vista dello strumentario sì, ci sono questi istituti nuovi, la rimozione dei vertici senza un commissariamento, l'affiancamento di un commissario, che sono disciplinate dalla direttiva sulle crisi, dalla BRRD. Però la Banca d'Italia prima commissariava, e come? La Banca d'Italia naturalmente, ai sensi del testo unico bancario previgente, ha fatto numerosissimi interventi. Però in una situazione in cui era necessario fare gli interventi che la Banca d'Italia qualifica un termine un po' astruso, prognostici, cioè anticipatori, non era facile, diciamo, raccogliere tutti gli elementi che facevano scattare, tutti i trigger che facevano scattare la possibilità di un commissariamento. E la BRRD dà una strumentazione, quindi il fatto di aver preso tempo, perché la BRRD era temuta non dalla vigilanza ma in generale da un sistema bancario che doveva prenderne le misure, adeguarsi, è stata rinviata, come sappiamo, nel momento in cui è stato necessario usarla, quando c'è stata la risoluzione delle quattro banche, e nei mesi precedenti, nei quali diciamo sarebbe già potuta essere vigente in Italia, non avevamo degli strumenti che ci avrebbero aiutato a far meglio nel seguimento e nell'accompagnamento di queste situazioni prima che arrivassero ad una soluzione traumatica, che è quella che poi si è avuta. Ed è un po' la sintesi questa che richiama anche lei, cioè questa carenza di strumentazione nelle mani di Banca d'Italia, per la quale si sono lasciati in carica dei vertici di istituti di credito che dovevano essere rimossi, cioè Popolare di Vicenza, per essere chiari. Ma allora, qui il discorso, essendoci in causa poi delle persone, ovviamente va calato diversamente su ogni banca. Sulle quattro banche, Ferrara, Chieti, Marche, Etruria, il giudizio sulla governance, l'ha ribadito poi nell'ultima audizione il dottor Barbagallo, era già un giudizio negativo che già aveva visto come soluzione quella di un ricambio come condizione necessaria. Il discorso delle vendite è diverso, perché chiaramente ciò che riporta poi la vigilanza nei documenti, nelle cose che sono state dette in commissione, è una verità formalmente ineccepibile, cioè l'equivalente di una verità processuale, ma c'è tutto un, chiamiamo, un mondo di mezzo, cioè un vissuto nel seguire le vicende che hanno avuto anche un'evoluzione critica, a volte tumultuosa, in attesa, che chiaramente non è raccontato. Per cui, quando esattamente la Banca d'Italia ha messo al fuoco una fragilità della, non soltanto della governance, ma in generale della sostenibilità proprio del modello di business, del patrimonio, rimane un mistero. È qualcosa che è avvenuto tra il 2013 e il 2014, di questo diciamo possiamo essere sostanzialmente certi. Quando è scattato il campanello d'allarme, naturalmente è qualcosa avvolto nell'incertezza. Avvolto nell'incertezza. Andando a Consob, lei dice, Consob sostiene, intervenendo nei lavori della Commissione, che cosa ha sostenuto? Che aveva poteri limitati nei confronti delle banche non quotate e non poteva vietare il collocamento dei titoli, non disponendo ancora della facoltà di intervento diretto sui prodotti introdotta con la MiFID 2. Esatto. Allora, questo punto qua è un punto che a me lascia, lo dico per quello che può valere, ma nel invitarla a svolgere anche su Consob considerazioni come quelle che ha fatto su Banca Italia, mi lascia totalmente insoddisfatto. Perché lo dichiaro? Perché nella realtà chi ha seguito passo passo il processo di consultazione e poi di definizione del testo della BRRD prima della sua formale adozione e poi a formale adozione avvenuta, quindi stiamo parlando del 2013-2014, all'epoca noi non sapevamo nulla di ciò che scopriremo solo alla fine del 2015, quando Banca d'Italia rivela di aver condotto un'azione energica contro aspetti fondamentali della BRRD, ma all'epoca noi non ne sapevamo nulla, a dire la verità, l'Italia non l'ha saputo nel 2013-2014, però già alla fine del 2013 e nei primi mesi del 2014 la Consob i suoi documenti formali a proposito di informativa agli intermediari di credito di che cosa avrebbe comportato la BRRD c'erano, io è un documento che ho citato fin dal primo momento del 2015, c'erano dei Q&A, domande e risposte, nei quali a domanda esplicita cosa succede, cosa succederà quando entrerà in vigore la BRRD, che da noi poi entrerà in vigore solo adottata a novembre del 2015, praticamente quando facciamo la risoluzione delle quattro banche, però era già scritta lì da due anni, e la Consob cosa rispondeva nel Q&A, cosa succede per le obbligazioni subordinate con la BRRD? La risposta era inequivoca da parte dell'ufficio studi della Consob in quel documento rivolto alle banche italiane, poiché nella nuova gerarchia disposta in caso di risoluzione dalla BRRD i subordinati cambiano, assumono un profilo di rischio molto più elevato, essi non vanno più rivolti agli acquirenti retail ma solo agli investitori istituzionali, cioè a coloro che hanno una capacità di valutare e scontare il rischio maggiore di quel tipo di strumenti finanziari, però e naturalmente questo avrebbe significato per il canale utilizzatissimo dalle banche italiane con il sì di Banca Italia della Consob di funding delle obbligazioni subordinate meno oneroso, avrebbe significato aumentare l'onere per il funding delle banche. Allora, il mio sospetto, poiché la Consob lo scriveva già allora, è che tuttavia è mancata del tutto l'azione, che non era coattiva, non poteva impedirla l'emissione di nuove obbligazioni subordinate, ma siccome nuove obbligazioni subordinate sono state emesse come dalle banche, poi finite per aria dopo quel documento della Consob, però noi tracce di interventi per dire guardate che noi ve lo abbiamo detto, perché lo state proponendo ai retail, noi non le abbiamo avute e non ci sono state. Mi sbaglio, professore? Tutto corretto. C'è una dialettica sottile che è difficile cogliere e mettere a fuoco. Confermo che le cose erano scritte chiaramente, c'è stata un'iniziativa a livello di supervisori europei, quindi l'autorità bancaria e l'ESMA, che è l'autorità dei mercati finanziari, sono circolati dei documenti molto chiari sugli effetti delle risoluzioni, su una grande attenzione verso il cosiddetto self-dealing, cioè l'emissione di titoli propri delle banche collocati direttamente alla clientela. Queste cose le ha ricordate Andrea Enria, che è presidente dell'autorità bancaria dell'EBA, quando ha fatto un'audizione in Italia. Quindi dal punto di vista concettuale era tutto chiaro. Confermo, c'è stata una certa, non so come chiamarla, non adeguata messa a fuoco, distrazione di che cosa avrebbe comportato la BRRD. Venendo al punto, si doveva già agire severamente, ed è vero che questi pronunciamenti, queste linee guida sono delle muraglie cinesi che bloccano la possibilità, o avrebbero dovuto essere rispettati alla lettera e avrebbero quindi bloccato il collocamento dei titoli complessi. Purtroppo una risposta netta a questa domanda non c'è, nel senso che anche nella loro attuale formulazione sono richieste tutta una serie di cautele, di presidi, di documenti da diffondere, di competenze da infondere nel personale, però rimane legalmente per le banche la possibilità di collocare gli strumenti esposti al rischio di bad behavior, di buy-in, presso la clientela. Quindi è una scelta di valore che il singolo intermediario deve fare, che però sul piano della enforceability regolamentare non è così sicura. Quindi la Consob, ma anche in audizione l'ha ripetuto, è un soggetto che allo Stato è soprattutto il garante del flusso informativo che va verso il mercato, a parte poi competenze su aggiotaggio in sede a training, che lì significa che va, certo, per una funzione di polizia proprio a reprimere i comportamenti di quel tipo. Ma dal punto di vista della tutela non è proprio un concetto di protezione dell'investitore, è un concetto di tutela della trasparenza. Sì. Esatto. E c'è questo, diciamo, paradosso che in Italia chiaramente è un qualcosa che lascia molto perplessi, cioè tutto un impianto di protezione della correttezza, della trasparenza dei comportamenti, che ipotizza dall'altra parte una platea di investitori che sono tutti maggiorenni e vaccinati, quindi sono capaci di leggere un prospetto, sono capaci di fare una proiezione dei flussi di cassa, ma ai quali però non era chiaro per niente che sarebbe entrata in vigore la BRRD e che cosa quindi rischiavano davvero. Questo è il problema. Ma su certi prospetti a volte era scritto, sì, però qui è una cosa che soprattutto nel pezzo che ho scritto ieri, siccome mi ha colpito molto, è come invece c'è stata una congiunzione astrale infausta, per cui nel momento in cui le banche avevano bisogno di rabboccare il capitale perché c'erano questi nuovi adempimenti e così via, si sono ritrovati bloccati l'accesso ai mercati all'ingrosso, o hanno deciso, perché era la via più comoda o l'unica, o perché non si ponevano remore, che so, morali, di andare a attingere pesantemente. E le testimonianze che ascoltiamo da queste riunioni delle associazioni dei risparmiatori, tolte quelle vene, diciamo, di maggior polemica, sono veramente cose sconcertanti che si sentono, come sia stata forzata la loro adesione. Esattamente. Allora, adesso, prima dell'interruzione, la consueta interruzione per vedere cosa succede sui mercati e un po' di pubblicità, andiamo a enumerare e a capire quello che, saltato il capitolo sulle birbonate dei ricchi, cioè quelle delle grandi banche negli anni precedenti, ma no, quello il problema bancario italiano è quello che il professor Zugovesi un po' ironicamente chiama le birbonate dei poveri, nel senso che le banche andate per aria nel nostro paese si riscontrano quattro tipologie sotto cui ricapitolare che cosa è avvenuto che l'hai fatto andare per aria. Primo, cattiva gestione del processo di credito, cioè garanzia inefficace, alto rischio non valutato, credito agli amici degli amici, insomma, amministratori e così via. Secondo, una rappresentazione falsata della situazione economico-patrimoniale dei rischi nelle informative date al mercato e alla vigilanza. È questa seconda cosa. Terza cosa, quella di cui stiamo parlando, cioè un collegamento, all'altro il collocamento degli strumenti finanziari, andare oltre le regole, perché può essere anche qua informazioni distorte o fuorvianti e vai con la clientela retail per le azioni. Possono essere le azioni baciate che abbiamo visto, vuoi il credito? Bene, allora però ti becchi anche un po' delle azioni e naturalmente stiamo parlando di istituti che a quel punto non erano quotati, quindi col valore stabilito dalla banca, e poi altre pratiche che sono corrette dal punto di vista della MIFID. E infine, quarta cosa, vere e proprie gestioni dissennate, azzardate, e in taluni casi sarà la magistratura a valutarne anche il dolo, e i vantaggi per chi li ha messi in essere. Queste quattro sono le cose fondamentali per cui le banche su cui c'è la commissione, e di cui, azionisti e obbligazionisti hanno perso i soldi, sono andate per aria. Ricominceremo di qua tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta col professor Luca Erzegovesi, che insegna finanza aziendale all'Università di Trento. Sul suo blog panefinanza.it, resoconti lunghissimi che commentano e inquadrano tutto il processo fino a questo momento di acquisizione di dati, testimonianze e punti di vista diversi espressi dalla politica, ma soprattutto i dati emersi nelle audizioni della commissione parlamentare di inchiesta. E abbiamo utilizzato quello che il professore Zegovesi scrive per fare colui il punto su alcune cose che abbiamo appreso dal punto di vista sistemico, per così dire, al di là delle polemiche politiche. Sono importantissime, per carità, non voglio sottovalutare, dice, ah, ma non vuoi parlare della faccenda di Mariana Boschi, Etruria, Vegas? No, però ne abbiamo parlato anche stamattina ci avete sentito, me e Luca Terese, come in ogni altra trasmissione della 24 da ieri. Però non è che possiamo perdere di vista, abbiamo visto che cosa Banca d'Italia e Consob sostengono con i loro interventi rispetto ai limiti degli interventi che hanno avuto, abbiamo visto che effettivamente la Consob dice noi non è che potevamo impedirla l'emissione di subordinati, verissimo, detto questo l'avevano sconsigliata e io avrei gradito che lo ricordassero, lo avessero ricordato agli emittenti, e adesso ci eravamo fermati alle quattro grandi famiglie di condotte che hanno portato appunto alle crisi bancarie di cui stiamo parlando nel nostro paese: la cattiva gestione del processo del credito, la falsa rappresentazione della situazione economica e patrimoniale, il collocamento irregolare di strumenti finanziari e strumenti di capitale delle banche, e anche le ipotesi peggiori, cioè il moral hazard e magari condolo di chi amministrava le banche. Ecco, da questo punto di vista, professore Zegovesi, quello che abbiamo capito è che il regime di controllo per evitare queste quattro fattispecie e le sanzioni che oggi sono previste sono efficaci oppure no? Una domanda che mi riservo di approfondire nel prossimo post. Adesso cerco di dare una prima suggestione. Allora, l'impianto regolamentare, quello proprio poi dopo applicato dalle autorità di supervisione sulle banche, sui mercati finanziari, funziona molto bene sul prima e sulla patologia già conclamata. Per cui la vigilanza con un apparato di regole che è cresciuto a dismisura dice per filo e per segno come devono essere qualificati i modelli di business, i piani strategici, la governance, l'organizzazione e i famosi processi. Ecco, lì arriva anche con l'attività ispettiva a verificare che siano tutti gli attori previsti dal copione della commedia, che siano formati, che ci siano i sistemi. E se ci sono delle carenze, è chiaro, le rileva e dice provvedete, assumete un risk manager, questo capo del information technology non è adeguato, sostituitelo, e cose di questo tipo qua. E poi dopo chiaramente si arriva a colpire le malefatte o comunque gli incidenti di percorso o le patologie. Tutto l'impianto sanzionatorio nella sua forma monetaria, che tra l'altro adesso è stata rivoluzionata perché sono entrate in vigore le norme europee che colpiscono più la banca che la persona, in casi diciamo meno frequenti se non eccezionali. E c'è uno spazio in mezzo in cui di fatto è come se dominasse una legge di tipo morale, cioè è il buon comportamento dell'intermediario che è la migliore garanzia che diciamo queste birbonate, come le ho dette così nel termine manzoniano, non vengano commesse, perché è un fatto di diciamo innanzitutto qualità personali, è un fatto di cultura aziendale, è un discorso poi di leadership, di efficacia ovviamente del sistema dei controlli, dell'auditing, però è una sorta di camera stagna nella quale l'azione della vigilanza non entra, come del resto è anche naturale che sia, perché è la sala macchina che fa girare poi il motore della banca. Quindi il grande dilemma è questo, vediamo le premesse, le regoliamo anche poi con appunto delle linee guida che sono diventate molto anche più articolate, quasi come se avessimo una sorta di consulenza strategico-direzionale gratuita. Beh, gratuita no, perché la BCE ha comunque delle quote di copertura sui costi di funzionamento. E poi a valle, quando poi il problema è già scoppiato. Quello che abbiamo visto nelle crisi italiane è che la situazione è scappata di mano in un momento che sta fra queste due porte. Sì, sì. Anche se però c'è un'eccezione, che è molto rilevante, nel tempo proprio identificato come il tempo che pone la radice della questione che poi esploderà mandandola per aria, e oggi stiamo parlando di una banca che al 70% ha il MEF come azionista, cioè il Monte Paschi, che nel caso del Monte Paschi il problema nasce nel 2008, è un problema che nasce nel 2008 su un prezzo di acquisizione di Anton Veneta che viene a valori su quali non voglio intervenire, è già ben nota la faccenda, e che però grazie alla commissione adesso abbiamo appreso una questione di importanza fondamentale, perché abbiamo appreso che la versione ufficiale durata anni del fatto che le perdite non dichiarate venivano spalmate attraverso strumenti, titoli che invece dovevano essere messi anno per anno in conto corrente invece che presentati come strumenti di trading, quindi non vanno anno per anno nel bilancio corrente della banca ma sono nella parte patrimoniale. Beh, la versione ufficiale, cioè che la Banca d'Italia l'avesse scoperto anni dopo per un ostacolo alla vigilanza, e quando questi documenti emergono da una cassaforte, questa è stata la versione ufficiale tenacemente difesa dalla Banca d'Italia, io l'ho sempre contrastata perché ognuno ha le sue fonti in banca e sapeva diversamente. Beh, tra le audizioni processo Deutsche Bank in corso a Milano e poi le conferme che sono venute, beh, abbiamo avuto un pezzo di verità diversa, cioè la presenza di Alexandria Santorini e la valutazione che poi è stata fatta alla Banca d'Italia lo sapevano, ma il punto è che pur sapendolo e capendo benissimo la differenza si sono trovati ad anteporre le esigenze di stabilità a quelle del dire: signori, qui c'è un criterio contabile che può produrre un danno, che poi alla fine ha prodotto a Siena. Non è così, professore? Questo aspetto tecnico è molto sottile e chiaramente rilevante. Posso soltanto fare un ponte temporale tra... ha richiamato prima 2008 di Aston Veneta, quello che c'è fuori. Nelle audizioni alla obiezione di avere strapagato questa banca passata poi da ABN AMRO, Santander, tornata a Siena e così via, si è detto che il prezzo dei 9 miliardi era giustificabile dai multipli di mercato di allora, per cui c'erano banche che quotavano più di 3 volte il loro patrimonio. E nel corso del tempo siamo arrivati in una situazione in cui la banca media italiana, adesso le cose sono un po' migliorate negli ultimi mesi, quotava invece 0,35, sì, esatto. Cioè voglio dire un decimo rispetto ai suoi valori di libro, eh sì. E questo, diciamo, è una specie di asteroide che è caduto sul pianeta Terra, che ha stravolto e ci fa vedere le scelte prese allora, anche se prese chiaramente con delle strategie azzardate e ricattate da questa necessità di mantenere un controllo su un soggetto, la fondazione, che non aveva le spalle patrimoniali sufficienti, entrando soprattutto a questi valori. Comunque, venendo al punto che sollevava, che chiaramente rilevava, perché quello è un punto che, siccome viene fuori, è prima della coincidenza astrale italiana, che è successiva, sì, alla crisi del rischio sovrano, fa intendere solo una cosa, almeno a me fa intendere una cosa, visto che ad autorizzare l'aumento di capitale della fondazione per non perdere la quota che aveva, un aumento di capitale che non poteva essere autorizzato, e il MEF, che a cui spetta la vigilanza sulle fondazioni, il MEF con Tramonte ci dirà: no, ma a me non tocca entrare nel merito. Uno, intanto però hanno autorizzato loro. Due, a determinare quella valutazione che vede il problema ma non lo solleva, e la Banca d'Italia, uno dice: vabbè, ma è perché in PPS c'era la politica dentro, è inutile, cioè, girarci intorno, perché anche questo poi è un capitoletto che lei tratta. Lo dico solo per chi ci ascolta. Prego, l'ho interrotto. L'elemento di propulsore. Chiaramente tutto si tiene, perché Alexandria Santorini, l'emissione dei titoli fresh. Di fatto sono un apparente aumento di capitale che in realtà è finanziato da debiti in capo alla fondazione, sono tutte tecniche per poter rimpinguare un capitale di vigilanza che era stato portato al limite dall'operazione Anton Veneta. Quindi il problema che sta dietro tutto è far figurare una certa dotazione di capitale di vigilanza, senza la quale non si rispettano i requisiti e senza la quale non si distribuiscono i dividendi. E poi a un certo punto la distribuzione dei dividendi era anche la condizione per poter remunerare il FRES. Adesso, sì, sì, ma è così, altri, comunque, è così, non si sarebbe retto. Quanto, esatto, sofisticato il quadro tecnico. È una specie di castello di carte che aveva una sua staticità, ma chiaramente molto problematica. Alexandria Santorini sono indubbiamente due operazioni che entrano in questo tipo di strategia e che servono appunto per... adesso non si capisce bene se era una perdita che c'era stata ed è stata coperta con queste operazioni, oppure se queste operazioni hanno generato un utile fittizio, a fronte del quale però una lunga coda di margini negativi su queste posizioni in titoli di Stato e opzioni complicate, che contabilizzando come derivato a saldi chiusi sarebbe stata già anticipata nei bilanci. Esatto, io sulla base di questa analisi nel 2013 dicevo: no, MPS, bisogna prendere una decisione radicale, entra lo Stato, la pulisce, separa il buono dal cattivo e la ricede allo Stato, e la ricede al mercato entro due anni, come hanno fatto prima della BRRD tanti altri paesi europei, ed era prima della BRRD, quindi avremmo potuto farlo. La politica non ci ha sentito, ma nel 2013 eravamo in pochi, ma lo sostenemmo. La mia opinione resta che i fatti successivi ci hanno dato abbondantemente idea, ragione, voglio dire. Andiamo a vedere cosa succede per sulle strade e poi torniamo. La versione di Oscar. La conclusione del lunghissimo post, che ancora una volta vi chiedo, andate a leggere, ne vale la pena, su panfinanza.it, il professor Luca Arzegovesi ha un capitolo che sul quale io sono molto d'accordo, naturalmente i miei colleghi non saranno d'accordo, dice: comunque, chiariamoci una cosa, non è materia da talk show, cioè non è una materia che si possa ridurre a battute 10 secondi contrapposte, perché la lezione ordinamentale da trarre è a problemi enormemente complessi, inevitabilmente complessa, e non si può ridurre a battutine. Lei ha speranza che saremo in grado, da quello che vede, per trarne la lezione istituzionale ordinamentale, professor Arzegovesi? Ah, sì, io sono fiducioso. Adesso deve calare un po' il polverone sollevato da questo dibattito. La commissione d'inchiesta è una specie di scuola, nel senso, vedo i membri cambiano anche il loro atteggiamento, imparano cose, ci sono ancora delle prede, diciamo, in termini di consenso politico elettorale, che alcuni hanno nel mirino. Da portare a casa nel mirino, e va bene, chiaro, ne prendiamo atto, però è stata pur nelle punte anche un po' accese di contestazione, di dialettica, di critica, è stato un momento in cui tanti attori, quindi parlamentari, governo, autorità, rappresentanti delle banche, e magistratura, si sono messi davanti a questo scenario, come non so, dopo un sisma, e hanno detto: aspetta, che cosa è successo? E adesso da dove ricominciamo per costruire? E secondo me, anche a livello di vissuto delle persone che hanno fatto questa esperienza, di tutti noi che le stiamo seguendo, da questo punto di vista la commissione è stata utile. Adesso c'è da fare il lavoro. Adesso c'è da fare il lavoro. A me piace molto il capitolo finale, in questo non è materia talk show, perché coglie lo scaricabarilismo, che è un difetto italiano che io vedo sempre di fronte ai guai, che non è l'assunzione collettiva di responsabilità, come si vede nella vicenda delle banche. I regolatori da una parte, i vertici bancari dall'altra, l'associazione bancaria dall'altra, la BE, che ha avuto un ruolo in questi anni, ma lasciamo perdere, e la politica, è tutta un gioco a rimpiattino a dire qualcun altro. Ecco, invece, di fronte a un guaio come questo, stiamo parlando di decine e decine e decine di miliardi di euro di valore andato comunque in fumo, una vera lezione istituzionale viene tanto più efficace quanto più gli attori in gioco assumono delle responsabilità insieme e dicono: chiama in gioco me, sto leggendo il professore Zegovi, I care. In tutti ha taciuto la voce della responsabilità, che deve far dire: chiama in gioco me, I care. Tutti questi soggetti, non lo scarica barile. Ecco, questo per il momento è un'altra acquisizione che abbiamo, che mi rende un po' meno ottimista, il professor Zegovesi. Ma intanto grazie, perché vedrete che quando andremo a conclusione lo risentiamo di nuovo il professor Zegovesi per ragionare insieme a voi e darvi una sintesi in pillole di quello che abbiamo fino a questo momento capito. Continuate su Radio 24, appuntamento domani come sempre dalle 10 alle 12, Conti da Belva con me, Carlo Alberto Cannavale Maffè, Mario Seminerio, Renato Cifarelli, e parleremo di agenda digitale, perché Piacentini, intanto il grande manager, se ne va anche lui dall'Italia, di alternanza scuola-lavoro, di novità fiscali, oimè, e come sempre sarà un bel inizio di fine settimana.